All'interno del Festival La Violenza Illustrata della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, che vi stiamo raccontando in questi giorni, il prossimo sabato 4 e domenica 5 dicembre ci saranno due appuntamenti sul tema supporto alla genitorialità e quindi genitorialità e questioni di genere. Ne parliamo con Elisa Rosso della APS Vola Vola, che è al telefono con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Raccontaci un po' di questi appuntamenti, dove si svolgeranno e soprattutto cosa tratteranno. In realtà parto dall'incontro che è previsto per domenica 5 dicembre. Si svolgerà in presenza al Teatro Biagi d'Antona di Castelmaggiore e per chiunque voglia seguirlo invece a distanza ci sarà la diretta streaming sulla pagina Facebook di Vola Vola, che è appunto l'associazione di cui faccio parte. E l'incontro si intitola di supporto alla genitorialità e contrasto alla violenza domestica. Il tema di cui tratteremo è come e perché le azioni di sostegno alla genitorialità possono essere considerate a tutti gli effetti delle azioni di contrasto alla violenza domestica. E questo, come dicevi tu, è un evento che facciamo all'interno della cornice del Festival La Violenza Illustrata della Casa delle Donne. Il presupposto di questo evento qua è che i dati sulla violenza dimostrano che ci sono due momenti in cui si concentrano maggiormente gli episodi di violenza, al di là del fatto che la violenza sia un problema strutturale della nostra società e avviene tutti i giorni. Ci sono due casistiche molto grosse che si prendono una bella fetta di percentuale, che sono quando lei lascia lui, e quello è un momento in cui la violenza arriva a picchi abbastanza sconcertanti, e un altro momento molto delicato in cui appunto le violenze si inaspriscono è quando nasce un figlio. I dati dimostrano che insomma questo è su gravidanza e primi due anni di vita del bambino o bambina. E quindi l'idea è andare a ragionare sul perché alcuni uomini inaspriscono il loro comportamento violento in quel periodo specifico della vita e cioè come mai, quindi per quale motivo la nascita di un figlio insomma mette così tanto in crisi. In realtà li mette tanto in crisi perché erano già in crisi da prima. È evidente che stiamo parlando di persone che hanno una visione delle cose, del rapporto con la compagna e del loro ruolo di maschi, che è una visione insomma fatta in un certo modo, che appunto va maggiormente in crisi in quella situazione. Quindi è un problema di mascolinità tossica. A partire da questo dato, siccome da anni molte realtà sul territorio fanno lavori su incentivare il coinvolgimento dei padri in tutto quello che è il lavoro di cura, nell'accudimento dei figli eccetera eccetera, e coinvolgerli in tutti i processi che riguardano sia l'attesa, quindi dalla gravidanza in avanti, si è visto che laddove gli uomini sono più accudenti e sono più coinvolti nella cura appunto dei figli e delle figlie, in realtà i numeri, il tema della violenza viene meno. Per cui a noi interessava capire per quale motivo fare azioni e progetti sul sostegno alla genitorialità può essere visto anche in chiave di contrasto alla violenza di genere. E questo è l'evento che facciamo dentro al contesto, insomma, siccome siamo partner del Festival La Violenza Illustrata della Casa delle Donne. Invece il sabato mattina, che quindi è sabato 4 dicembre, è sempre con la stessa modalità, cioè in presenza si può andare al Teatro Biagi d'Antona di Castelmaggiore, oppure in diretta live streaming sulla pagina Facebook dell'associazione Vola Vola. Faremo un convegno che si intitola Genitorialità e questioni di genere, sottotitolo come agire la parità di genere all'interno dei contesti familiari ed educativi. In questo convegno qua abbiamo 6 persone che faranno degli interventi. Diciamo che i temi che andremo ad affrontare sono diversi. Uno è sicuramente il tema della divisione, diciamo così, paritaria, della condivisione del lavoro di cura tra uomini e donne e di come questo possa essere visto come un'opportunità per entrambi. Quindi la riflessione sul come dividersi il lavoro di cura in maniera paritaria sia qualcosa rispetto alla quale ci guadagnano tutti, sia la mamma che il papà che il bambino o bambina stessa. questa. Ovviamente faremo un breve passaggio sul fatto che le famiglie non sono solo questo, perché non vorrei che da questo si capisse che noi consideriamo solo le famiglie tradizionali, modello mulino bianco, maschio, femmina e prole. In ogni caso, appunto, relazioni tra partner che siano relazioni rispettose e paritarie, noi pensiamo che sia il meglio, insomma, per tutte e tutti. Poi ci sarà una riflessione sul tema della conciliazione, tempo di vita, tempo di lavoro, con una visione un po' critica, che è quella, questa riflessione qua spesso porta a contrapporre il tempo che dedichiamo al lavoro col tempo che dedichiamo a casa famiglia. La cosa interessante è che non consideriamo quasi mai il tempo libero dei genitori in generale e delle donne poi nello specifico, che spesso la subiscono maggiormente questa cosa, quindi sia per curare i propri interessi personali, che possono essere interessi culturali o anche solo farsi un bel bagno caldo, insomma, e sia anche il fatto che si possa pensare di avere spazio per portare avanti, faccio un esempio, la partecipazione politica, l'attivismo, il volontariato o altre questioni di impegno, diciamo, civile e sociale. Non è un caso che le donne tendenzialmente partecipano meno, appunto, per esempio, all'attività politica. Perché? Perché sono maggiormente sobbarcate dal lavoro di cura, quasi sempre. Poi avremo due relatori uomini che ci parleranno molto delle emozioni dei padri, delle mascolinità accudenti e di come questa cosa dell'essere come uomini in questo caso, no? Maggiormente coinvolti nel lavoro di cura abbia un impatto sulla democrazia. Poi ovviamente parleremo di stereotipi di genere ed educazione nelle scuole e non solo, anche appunto a livello familiare. E infine, visto che parliamo di stereotipi di genere, di come impattano sulla crescita dei nostri figli e figlie e di come si relazionano i due partner, diciamo i genitori, abbiamo un intervento appunto della Casa delle Donne, di una psicologa della Casa delle Donne, che darà contributo, insomma, all'ottica del centro antiviolenza, cioè di come questo si traduce per esempio in violenza assistita per i bambini e le bambine. E poi c'è un tema che spesso viene indagato poco, perché spesso si parla della violenza che esiste tra i due partner, quindi tra le figure adulte, senza considerare la violenza che subiscono invece i bambini stessi o le bambine stesse. Per cui abbiamo sei interventi molto densi su sei argomenti che ovviamente si intrecceranno tra loro, però in realtà sono sei argomenti, insomma, ben distinti. Io ti ringrazio e invito tutti appunto ad andare anche sulla pagina Facebook dell'associazione Vola Vola per trovare poi nel dettaglio il programma. Grazie mille intanto. Grazie a te, grazie a voi.